Senti, sì. Ma che sento io, cara? Dimmi, Luca. Allora, mi senti, sì, a me, sono a posto. Sto a posto, Paolo, io se questo cazzo di radio non la posso usare, se no mi accudo a capo fra poco, babbo. Perché, se no, le porto... Vedi le cose, mi... va. sia per la livella ricca, va. Ma sono le prove. Prova di mai di maschera. No, guarda, le ho guarda, anche il focus è molto bello. E questa settimana sono i corsi al mercoledì e venerdì con le mafie. Quindi io le guardo sempre io anche qui, che vanno bene. Giusto per animare un po'. Ma fa che cosa, se no, non ho mai avuto gatto di televisione. A voi voglio pagare, voglio pagare. Voglio pagare. Cazzo, sempre a pagare, e poi non c'è mai niente. Avanti, tanto ripeti. E capo, perché siccome io sono appassionato, da quest'anno mi sa che ho letto Sky, è vero, perché sono appassionato purtroppo, anche di calcio, di tutto. E quest'anno ho deciso di mettermelo. La fottitura, ma no, i film sono sempre gli stessi, capito? Sono sempre gli stessi, soprattutto Mediaset Premium. C'ho il calcio, vabbè, quello lo guardo le partite, adesso c'è la Champion, però guardo le partite tutta la domenica in diretta, quelle del sabato in diretta lo stesso, e poi durante la settimana guardiamo i film, ma sono sempre gli stessi. È una rottura di palla che non viene bene a dirlo, è una grandissima fottitura, proprio una fottitura che è, mi confermi te ce l'ha fatta ancora te. Ma io, a me di guardare i film non mi interessa nulla, io voglio guardare lo sport, voglio guardare lo sport, la Formula 1 e voglio guardarmi il calcio. A me dei film, se me lo voglio vedere, vado su YouTube, e c'è su YouTube, e ci sono anche tanti altri corsi, se voglio vedere film, vado dove devo andare. A me mi interessa vedere il calcio, e vedere la Formula 1 da quest'anno. Se no, per me non me ne può fregare di meno. Io non voglio, guardo lo sport, lo guardo tutto. Poi sono anche film, ti ripeto, che li vanno doppi, giusto per così. Beh. Vabbè, comunque, c'è Bilancourt, quello che c'è quando non c'è niente. Dicevi bene, mette Goku, mi devi fare. E che ci iniziamo un gara giornata, speriamo che sia battente. Poter fare qualche cosetta, e ciccia. Ok, avanti Luca. No, dopo ti devo dire una cosa, vai Luca, vai. Ma guarda tu, va. Va. Tu da quanto tempo ce l'hai? Dai. Io l'ho fatto prima di Natale, mi pare. Quel pacchetto che c'era prima di Natale. Prima di Natale. E Mediaset Premium ce l'ho da Pasqua, prima dell'estate. E l'antenna, l'hai installata tu, l'hai installata o l'hai installata il tecnico? Abbiamo fatto tutto il tecnico, cosa hai fatto? Se tu passi via Milano c'è una parabola sopra il mio tetto, quella centralizzata. Quella l'antenna centralizzata di Sky, abbiamo chiamato a Parrotto. È venuto Parrotto, ha fatto l'impianto centralizzato Sky, ha messo la parabola su e poi in ogni appartamento ha fatto la scatola, ha messo la scatola dell'ingresso Sky. Ma come Sky, se quello lì lo prendi e lo metti in un ricevitore satellitare, funziona lo stesso. Conferma. Perché dice, a me mi hanno detto che chi tu HD, a me mi pare una cazzata, per vedere i conti in HD dice che devi cambiare l'occhio, ma questo non è vero però. Santo, non mi intendo su queste cose, la verità, però la parola che abbiamo io la cabina la vedo benissimo, quindi sicuramente sarà tutto collegato, non lo so, ma questo l'hanno fatto l'anno scorso, un impianto che praticamente con la parabola grande che vedi sull'angolo dove c'è il palo che sostiene il dipolo, là, per capirci, già si vede la strada, quella è la parabola di Sky, e abbiamo una per ogni scala, ogni scala c'è la sua parabola, capito? No, perché sicuramente prende sia cosa prende, perché c'è il satellite, sono due, uno per l'altro è cosa, è altra, sicuramente le prende tutto, allora prende anche il canale tedesco. Tutti i canali del mondiale prende. E perché quei due occhi sono puntati, uno è su Sperre, l'altro è su Anna. Ecco perché è così. Comunque la mia antenna sicuramente è predisposta perché me l'ha detto Antonello, io stamattina ho telefonato, me l'ha detto che il mio impianto può andare benissimo, quello che mi ha dato lui, e può andare benissimo anche su Sky, perché principalmente si prende su Sperre su Sky. Adesso devo fare il contratto, devo montare il decoder, sicuramente andrà tutto bene, perché qua li prendo anche i canali. Sì, ma li vanno bene, è che questo hanno voluto fare centralizzato e quindi così, capite? Però già funziona, non c'è un problema. Tranquillo. Avanti, Lugarie, tu non c'è la parabola. Venduta, l'ho regalata, si può dire praticamente, l'ho regalata, motorizzata, ma cogli anche per il tempo, niente, no, non so, l'interno e basta, dalla TV. L'interno solo ti è rimasta, è buono, non c'è più sentito, è sempre la polia, è scendo in 4.40, a voi è parito. Cosa cazzo per capace lo idratta? Che credo! Ma sentite, io l'ho imparato! Sto cercando 4.40, c'è qualcuno che ce l'ha, mi bomba, cazzo la mia, non è guardato manco uno! Boh! Sempre uguale che branco, perché se... Perché non entra più da faratto, esce da faratto. Sta trombando come un rinoceronte. Aspetta che mi aggiusto il letto qua. Cioè, già aggiustato, ma voglio una coperta di più oggi, vedi? Cancarati, arrivo subito. Guarda, non ti muovi buoni cubi, vedi, ti si fa fino. Stava facendo un pomino, lo puro un clas. Cos'è detto, vuoi morire? Giusto, addirittura. Ma tu vai qua già a fumare, no? Mai più, mai più, mai più. Vedi, non gli si fa là, non si fuma più. Ehi, invece questo ritenevo qua no, no? Cioè, va bene. Stai comparando questa cosa? Che ci stava? Ehi, ma dicembre c'ho, dal 20 di dicembre. No, no, no, io ho smesso, no, non ne voglio più sapere. Beata che verrà giù fatta, è fatta così. È finita l'era della città. Già lo so, e va bene. E beh, ognuno c'è carattere. Io ancora ho bisogno di aiutarmi e quindi mi aiuto a buttandomi sì a balla di acqua tutto il gomito. Cosa ho fatto? È così, va bene. Che sono 10 meno un quarto. Tutta la linea ho bisogno di bucci. Prima vanno su 12, su 10, su 5. Tutta la sera qua. Ma vabbè. L'importante è esserci. L'importante è esserci. Allora ho fatto la domanda a Luca. È doppio provato, vai. Ma è su gruppio. È un unico periodo. No. Ma io dico pure una cosa. Che se trovo qualcuno che fuma, è meglio che me ne vado. No, non devo stare niente che non fuma. Devo stare vicino a persone che non fumano. Perché mi dà anche fastidio, No, nulla, niente da fare. Eppure a me mi dà fastidio, solo che tocca a bruciarlo, che lavoro di fare? E fuma, babbo? Grazie, ma perché va? Cosa vuoi fare? Non li possiamo... Non li posso fare nulla io, no? E io ho fatto il mio passo, ognuno poi faccia come vuole, come... Vabbè, non ce l'ho fatta, vabbè, non era a tutti comunque, era a seconda della persona. Cioè, a chi prende la razza, c'è quello che magari ha letteralmente le palline girate, e così. Insomma, così la sigaretta. No, a me no. Questi bolini che hanno il tumore, ma non mi attacca la sigaretta. No. Quella sarà l'ultima cosa, l'ultima che mi rimarrà la sigaretta. Beato che ci sono riuscito, che ce l'ho fatta, ho staccato il telefono, ma non penso proprio. Non sarà, è proprio un capitolo chiuso quello. E poi sono una persona molto psicologica, che quando dico no, e no e basta. Ci sono riuscito e non voglio più sbagliare. E poi, se devi essere tu, direi che sei più forte del vizio. Non il vizio è più forte di... insomma, di della persona, ecco. Ma secondo, poi ce ne sono le persone, tipo qui Claudio mia madre ha provato a ringraziare, dice non lo guardi qua, sai che continua a fumare, ma però da una parte diciamo ha ragione, perché sai, quando uno smette di fumare si butta a mangiare, senza più mai niente, e ha provato a ringraziare. Ma fa male la sigaretta, faccio se deve scegliere lui, se ingrazzare o farsi male la sigaretta, perché si sa che la sigaretta fa male. Guarda Luca, io nel tuo periodo poi troppo lì mi sono anche un po' limitato perché No, è notte. Magari prima entra la mazza, da qui entra la bombola, si è svegliato il pulizzito. E invece io mi sono un pochino limitato e sto bene, sto benissimo, guarda. Mangio quello che devo mangiare, non mangio. E così di no, è la voglia. Tutto rincoglionito, ricordo, non c'era nessuno, pagavano soldi zero, proprio a di un euro, nulla, niente, non c'era nessuno in giro. Tu pensa, poi sempre molto lì, ho fatto un giro qua su Sassa, non avevo un'anima. Poi la sera sul tardi, cazzo, riesco, guarda, vado su in piazza, trovo Armandino, nipote di Michele. Tanto zitto, ma non è che sono andato a mandare fuori la sigaretta, tanto non l'ho mai visto. Così, ero un bocchino di mica, ero scimmiato, mamma mia, guarda. Ma lo ricorderò più che a campo. Ma non diceva una sigaretta. Cazzo, mi si sentono, ma non mi sentono mai lì, senta la maglietta, cioè, scusa, la maglietta, no? Cazzo, mi dava la sigaretta, mi fumo questa sigaretta e dico alleluia, non mi credo qua, proprio da lui, guarda, perché non mi ha mai, cioè, poi se ne nascondo non te ne dà, mi dava la sigaretta, mi fumo questa sigaretta, mamma mia, me la sconforto qua, tu pensi tutto il giorno, perché la mattina è abituato, con l'altro una sigaretta, no? Non la più, guarda, credi che sono uscito di testa. Però io posso dire che mi ha fatto male, a me mi ha fatto male, sono sincero. Eppure fumavo, ho fumato per 20 anni, non per 2 giorni, capo. 20 anni, tutti i giorni. 20 anni, già sono tanti, ma se tu consideri che io avevo 14 anni, forse anche meno, e fumavo di nascosto, e me l'ho portato fino a 52 anni, fate il conto. E ti posso dire che io faccio tutte le analisi semestrali, anche da poco ho fatto la spirometria, manco per le balle. Sto benissimo, non ho mai avuto grandi problemi. Non lo so, evidentemente da fisico a fisico, mai avuto tosse particolare, catarro, problemi alla gola, assolutamente. Assolutamente. Adesso ti posso dire che sto molto meglio, sicuramente, perché mi mancano già dal mese di dicembre 40 sigarette al giorno, sono tante, quindi mi sento molto molto meglio, però cazzo, sto diventando una botte. Sto riprendendo i chili che avevo quando avevo 20 anni, sicuramente, mi sto ingrossando giorno per giorno, capito, non mi sta più niente, quindi è lì il problema lì, quindi se non mi aiuto neanche con questa, ehi, manco la cosa del bar e mi vengo tra poco, vai Anto. Gamba, io purtroppo, io sono un pochettino fortunato perché sto molto molto bene adesso, da quando non ce l'ho più quella cosa. Sto molto meglio, anche le scale me le faccio come niente. Mi sono anche limitato mangiando e cose, poi io sono sempre in movimento, sono sempre da una parte all'altra. Molte volte adesso, in questo periodo, non sono neanche rientrato a casa, non sono neanche rientrato. Mi mangio un panino e vado giù a caricare, allora all'una e mezza, scendo giù alla fiamma 2000, ma mi trovo sempre con una persona, mi trovo giù, che conoscete molto bene. E sto bene, sto veramente bene, perché da quando l'ho mollata, guarda, sento meglio, sto sempre in movimento adesso, cioè i primi periodi ero scimmiato, quasi i primi giorni ero impazzito, cioè la mia scimmia, pazzo proprio, e poi dopo mi è cominciato a passare, dopo una ventina di giorni, pure di più, Già ti passa. Già ti passa, è passato a me, figurati. Però ti ripeto, certe giornate mangio molto molto di più. E quindi bisogna stare molto attenti, anche perché io ho già superato quella soglia che bisogna stare attenti ai valori, alle cose, quindi chiaramente insomma, lì il problema. Ma io ti ripeto, ci sono riuscito piano piano e ci riuscirò del tutto, ancora per me è presto, quindi va bene così, io non è che critico nessuno. Fumo non mi dà fastidio, se mi fumano a fianco non mi dà fastidio niente. Però a volte me la offro, non la prendo, c'è la mia e mi fumo la mia. Come che stia fumando una sigaretta, solo che non c'è catrana, non c'è niente qui. La percentuale è anche abbastanza alta, non ci sono problemi. Avanti, Luca. Ma poi alla fine non... Guarda, tu lo potresti dire. Tu lo potresti dire, Gra, che 30 anni fa, più o meno, c'era un tabacco buono, era più sano, questo lo puoi anche dire, come se lo puoi dire, no, questo che c'è adesso, tu lo sai questo che c'è adesso, ora ci mettono in mezzo, non puoi mai sapere, penso, lo sai cosa ci mettono in mezzo, no? Comunque ci mettono lo schifezze, per essere più dipendente, infatti se tu nutri ragazzini, tanti ragazzini sono che fumano, là, 12-13 anni fumando, ma anche più piccoli, io ho visto, ma come i cannoni, mi. Se tu passi dietro casa mia, li vedi gelosi i cannoni, ma te ne dico conto, per farti capire, ma lo dico, la sigaretta che c'è adesso, in confronto al tabacco che c'era 30 anni fa, c'è un abisso, prima era più sano, ma adesso no, fa molto molto male, peggio. Io non c'è cosa veda, ti fa sorridere, è più sano di solo la sigaretta. Io queste persone che fumano queste cose così non mi interessa, se lo fanno vuol dire che le piace, non l'ho mai fatto, né da piccolo né da grande, ti posso dire che ne vedo tutti i giorni, tutti i maniti, ascolto nelle zone che giro, che vado a lavoro eccetera, capito? Però è una scelta che uno fa. E certo, come hai detto tu, in quegli anni quando vendevano tabacco sicuramente era molto più pregiato e raffinato. Avanti, buon immondese. Come il fugaci, ma più bello sta. Sì, ma secondo me è meglio essere, adesso, alcolizzati piuttosto che essere finocchi come Antonio Grotte. Perché lo vento? Controllo, se mi piace il un messaggio, gli ho scritto, attivo e cancellato. E mi ha risposto da poco, no, Paolo, accusa, no, cioè, non mi fa male le amicizie, cioè, sono bloccato. Di che mi fa l'augurio a me? Infatti neanche mandato le amicizie, se no rimane in pura, voglio fare tutto. No, mi cancella, mi viene a dire a me che hai le cose da bloccate, ma non è gli inviti agli amici. Finita. Luca, lei c'è un mezzo. Ma infatti adesso anche Roberto e mio nipote l'ha cancellato. Cosa ti ha? Buonasera, c'è un break. Avanti break. Certo. Ma adesso non c'è la break. Vabbè, vedi, anche lì poi sono furbi, non se ne vanno, i ragazzi di tutti sono scindati i vostri già, oh tu, sono scindati i vostri, mamma, guarda, ci sei? Sì, non ci sono, io stavo guardando l'acqua, sta piovendo al dirotto qua. Non è freddo, no? Forse la parte alta qua, non lo so. C'erano i fantuzzi. Sì, c'è i fantuzzi. Ciao Gianni, buonasera, avanti le prende, fai girare. Ma yeah, io avanti. Ehi, hey, amano Fabrizio, non si è più sentito, ancora con la febbre. Io non sto entrando più lì. E lui, febbre alta? Sai, c'era anche il figlio, c'era la febbre alta. Aspetta, dai, io, signore, vi saluto tutti. Buonanotte a tutti in generale. Ciao Claudio. Luca e anche Antonio Grosse. Ciao a tutti. Pronto, arrivederci, ben sentito, buon cuore in tivo, oggi dopo 94 quando lo fare di prossimo. Fatto la prossima, buonanotte. Ciao Anto, alla prossima ci sentiamo. No, non c'è più traffico, quindi do una così un giretto, una crepe, poi sono sempre quanto, non lo so. Non ho più sito nessuno. Lo so, ho fatto un po' di radioascolto anch'io, ti ripeto, io mi sto trasferendo di casa adesso, quindi non ho fatto, adesso mettendo le antenne devo vedere di nuovo togliere. Però sai, il problema è questo, se tu prendi una casa, o meglio 10 persone, e li metti in una casa dove ci sono 100 stanze, la casa sembra vuota. Questo per farti capire, se questi canali che abbiamo diventano 2000, i canali monitor, e c'è il 145.525, poi c'è quell'altro che hanno tirato fuori con un altro sistema, poi c'è 403 da 150, cioè alla fine sono talmente tanti che ti perdi, capito? Ma è il sistema che non condivido, non voglio polemizzare qua, non mi interessa, ognuno fa quello che piace. So solo che hanno fatto una grandissima cagata, perché prima almeno era attiva la frequenza monitor, adesso sono tutti lì in attesa di Hitler con Link, una cosa non ci compresa, poi a me non mi interessa, non mi interessa, già detto non mi interessa, basta, e con questo non me lo fanno parlare a telefonare, mentre la radio ma fanno sempre, perché se no qualcuno manda anche a fanculo senza fare nome. Quindi io sono libero di fare quello che mi piace e continuo a fare quello che mi piace. A me il sistema digitale non è mai piaciuto, a non mi piace mai. Già odio il computer, no? Che sto lì a guardarmi le cose che mi interessano di lavoro o qualcosa che mi interessa per curiosare. Immagina di indurci mio mondo a trasmettere in digitale con iscrizioni, balle, poi farà... lasciamo perdere, facciamo il cazzo che vogliono, avanti Gianni. Infatti ho avuto la mala sorpresa di non sentire più nessuno di colpo, questo, ma qualcosa è successo. Qualcosa ci hanno creato, il grande Archimede ha creato questo Ecolink, quindi sono tutti lì, che sono tutti sbizzarriti in questo sistema che a me manco per le balle non è passato. Comunque già, me l'ha fottuto. Io come Antonio facciamo la radiatori fai da te, io vado dove mi pare mi piace, parlo dove mi pare mi piace e faccio quello che mi pare mi piace. Punto. Avanti, grazie. Ma io non muovo critica alle cose che non mi piacciono. Devo dire la verità, tutto quello che si avvicina a una tecnologia eccessiva e che ci distingue di poco dal cellulare, tanto che poi alla fine si pilota con un cellulare questo Ecolink o con un computer, è talmente, la tecnologia è talmente avanzata che poi alla fine perdi il gusto davvero di fare radio. A me piace la radiantistica pionieristica, mettermi nella condizione di essere eccessivamente tecnologico, poi alla fine perdi il gusto, per quanto poi ti dico le cose sono cicliche, e né più nemmeno come quando con gli orologi si arrivava al massimo della precisione, quando spaccava il buco del culo del millesimo di secondo, per poi ritornare agli orologi che magari erano più belli, meccanici, e che magari ti bruciavano 5-6 secondi al giorno, capito? Già, esatto, sono d'accordo, infatti. Hai detto bene, vabbè, comunque, no, neanche io, per carità, non voglio entrare in merito, anzi, ma riguardo il bene di criticare un bravissimo operatore come Massimiliano, con la sua voglia di fare, di sperimentare, eccetera, eccetera. A me non interessa, quindi mi sono ritirato, non me la fotti nulla. So, intanto qualcuno telefona, siamo in 20 metri, siamo qua, non me la fotti più nulla, Mollesi, mio gabbio, Santa Base, fate quello che vi piace e non me ne frega più niente. Faccio quello che voglio io, dovete fare quello che voglio, non trovo niente, né signora, né signora, che Dio non ha niente. Quindi quando voglio riparlare parlo, quando non voglio parlare sto zitto. Sto qui insieme a tutti come ho fatto sempre e faccio radio lo stesso, non è un problema. Avanti Lucaria. Ma secondo me però sono nel parere che devo. A me piace fare radio, con la radio, no con questi computer, questi piedi, poi ognuno lo fa come gli pare, gli piace. Normali, radio normali, VHF, VHF, e dici, ma per questa ci fa la radio, no, già in questi mesi, io già è un casino. Però a me no, mi scusi, poi ognuno. A me già. Essere un amatore da una parte non mi piace, ma dall'altra parte sì, ma perché? Ora la parte se puoi tenere la radio che vuoi, non è nessun problema, ti vedo controllo, dimostri la patente e va bene, però lì è un casino, per me sarà un casino, qua. Molto molto difficile, per come sono fatto io. Torna a casa lì. Adesso non prendo spunto da quello che hai detto Luca, però realmente la maggior parte delle persone che poi dicono non mi interessa essere radioamatore è un po' come la volpe in l'uva, quando non puoi arrivare all'uva la volpe la critica, capito? Però quello che dico io è questo, la patente, l'importante è avercela, dopodiché ti mette nella condizione di poterlo fare come meglio crede il radioamatore, fatto sta che ti mette comunque in regola, e tutte quelle cose che la maggior parte poi delle persone che criticano i radioamatori, ma poi c'hanno apparecchi radioamatoriali a casa, quindi evidentemente la voglia c'è di essere radioamatori, quindi è un controsenso. No, non mica critico, ho detto che da una parte non mi interessa, adesso non ho niente, cosa ho? Nulla. Però magari domani che mi voglio comprare un altro un 140, o mi voglio comprare un volume per fare ascolto, per dire, no? Già lì la patente mi interessa, certo, quel fulvio mi interessa, perché mi interessa, ma io lo controllo, sono più tranquillo. Se c'è male che non controllo, che non c'ho la patente, dicevo se andare a te ne fai tu qua. È un casino. Però dico, fare il radio come faccio io, a me piace così, no, sparare, no, ma io purtroppo non te lo permette, devi essere più regolare, devi stare attento, devi ascoltare tutto il turno. Siccome io non sono una persona che ha pazienza, allora no, non lo fa per me. Magari posso anche entrare, fare un saluto, sì, non più di tanto, perché so che quel tipo di... come fanno lì, fanno salotto, quando parlano, sono tranquilli, sereni, calmi. Ho ascoltato Antonio, lo so, e non fa per me, non fa per me, sono sincero. Certo, è un modo diverso di vedere, di fare radio, poi cambia solamente la frequenza, anzi, rispetto ad altre frequenze, non è un'altezza di frequenza, è proprio un modo diverso di rapportarsi con le persone che ci sono dall'altra parte. Poi di porcherie ne senti anche lì, attenzione, proprio facendo l'SWL ne ho sentito tanti di quelli che, ripeto, l'educazione non sanno ovviamente dove sia ricaduto. Però, io sono dell'idea che se uno ama la radio è bene che ci tenti a prendere la patente radiomatoriale, perché ti dà l'opportunità di fare un salto qualitativo nel fare proprio radio. Poi è vero che ci sono dei giorni dove non hai voglia, ti metti nella condizione allora di andare sulla banda cittadina ed essere un attimino più sbragato, cioè non significa essere maleducati, ma un attimino meno formale. Chissà, ma c'è colla, mi piace. Poi vabbè, le frequenze ti permettono anche di comunicare molto lontano, su questo qua sono d'accordissimo, cioè se c'è una buona posizione, poi l'altra persona se c'è una buona posizione e si trova in un punto che magari è buono, riesci anche a comunicare, proprio come baracchino, arrivi da qua al ghetto per dire, no? Io, facciamo un esempio io, ma in UHF riesce ad arrivare in UHF, riesce ad arrivare a Olbia tranquillamente, penso, no, Cla, è così, ci arrivo io da qua a Olbia, volendo. In diretta è molto difficile, sono pochi che parlano in diretta con Olbia, che è un punto molto, molto delicato, io ad esempio in diretta non ci arrivo, devo usufruire dal ponte, proprio con Olbia, mentre invece per la parte del Campidano in diretta arrivo benissimo. Sono dei punti, poi le V e le U sono molto delicate, sono dei muri, basta un minimo ostacolo che ti mette in condizione di poter dover avere un po' più di potenza. Io infatti ho preso 7400 proprio perché c'è le VHF da 100 watt. E quindi ti permette insomma di avere qualcosa in più, perché 100 watt in UHF sono tanti, come averne 500 in 27 più o meno, siamo lì. Però alla fine spendi e poi il discorso è sempre quello. No, ma sono d'accordo con Antonio, cioè io già nel 93 il passo l'ho fatto perché ne avevo le balle piene di avere la scuola sotto casa, non di certo l'ho fatto perché avevo intenzione di fare 5.000 collegamenti all'anno, partecipare ai contest o partecipare a tutto quello che è l'attività amatoriale, assolutamente. L'ho fatto, come ha detto Antonio, perché ti dà un salto in fatto di qualità e ti permette di essere un po' più tranquillo, fare radio diversamente, anche con più sicurezza, perché fare radio significa non solo avere un baracchino bello quanto voi, ma uno che ha la passione come noi tutti, io, voi, insomma tutti noi CB, che abbiamo la passione alla radio, avere una radio magari non ufficialmente omologata, quindi detenerla in una maniera nascosta, insomma, eccetera, avendo la patente, anche se la usi è sempre meno pericoloso, ecco, questo è quello che vuole dire Antonio. E io quello ho fatto negli anni passati. Tanto vero, non ho mai montato direttive, non ho montato niente, poi sono stato un po' messo in mezzo, stuzzicato per modo di dire, quindi anch'io mi sono un po' adeguato, montato direttive eccetera, ma sono ancora lì buttate sul tetto, non ho nessuna intenzione di appendermi e di fare la scimmia per far vedere chissà che cosa, non me ne fottevo più nulla, tutto qua. Poi per te già, io non mi sono mai sentato, lo sai, quando ho dovuto salutare sono entrato salutato sempre, in tutti i miei anni di attività amatoriale, anche ultimamente che c'era un po' più di traffico in VNU, io qua ero sempre presente, ogni tanto entravo, salutavo, certo a sbalzi, ma in questi giorni lo stesso, ma io sono sempre qua, faccio un po' di attività KF, però quando vedo che c'è di quel show che mi interessa, tranquillo e sereno, entro e partecipo anch'io. Anche con noi farò radio già, per me e poi non lo so per voi, a te ripeto. No, ma per me, cioè, bisogna rispettare i diritti, io la vedo in modo diverso da quello della vede Antonio, perché a me non interessa, non mi piace quella frequenza, ma mi piace più qua. Ascolto, perché ascolto di Corrizza, ascolto Corrizza Vittoria, anche perché sono uscito più bene, quindi mi piace ascoltare, però diciamo che è sempre quell'idea che non è il tipo di frequenza che piace a me, piace essere più libero, scherzare, parlare di tutto quanto, fare passaggi più lunghi, no? Dire il nominativo e poi passare subito all'altro. Non ci vedo nessun gusto a modulare così. Poi ognuno la sua passione ce l'ha, poi c'è anche un'altra cosa, io se dovessi fare per la partita mi dovrei comprare tutte le radio, tutte le antenne, siccome mia moglie non è d'accordo, lo dico chiaramente che io compri le altre radio, altre cose, non devo stare a bisticciare per le radio, per le cose, assolutamente, mi va bene così, mi faccio un discorsetto, mi faccio una chiacchierata e via. Sì, c'è qualcuno che mi chiama. Sì, già, ma sono d'accordo anch'io, non è che... Ma tu pensi che io se devo mandare a far culo una persona di UHF non la mando? E ne ho mandato più di uno. Le parolacce quando mi fanno i cazzari dico lo stesso, non è che sto lì a preoccuparmi che mi portano via la licenza, ma ragazzi la futti. Non futti blu più nulla, capito? Rispetto per rispetto quando uno scriva, no, non è che ho per la lingua a dire fa una cosa e scemi la culo. Capito? Chi mi chiama avanti? Sì, Antonio sono, ma non è un controllo con questa radio per vedere come esce, perché non ho parecchio tempo fermo. Poi c'ho la chiamata che è inserito dei 20 di bianco, quindi mi stai arrivando 7, dovresti essere intorno al 9-9-5 come segnale, capito? Però la radio è bella, chiara, pulita. Tutti, tu pensi che io viva solo per comprare la radio? vivo per vivere, è un hobby che ci porta avanti. Io quello che oggi ce l'avevo anche 10 anni fa, non è che è cambiato niente. Chiaro che non sono al passo degli altri allenatori d'alto livello, perché anche io non posso disporre di grandi cifre, però quest'anno che avevo qualcosa in più, 3 euro mi sono giocati tra radio e antenne, quindi non lo farò mai più, te lo giuro, non lo farò mai più, perché è un grande pentimento veramente. Mi sono pentito, avrei comprato altro radio e comprato questo parco antenne che non aveva manco di muovimi, non so come farli, infatti la verticale è ancora qua, il rotore colmato della direttiva HF è ancora qua, manco su c'è la salita, sulla salita solo il rotore della monobanda, avevo 10 metri e basta, e rimarrà qua per sino a quando arriverà l'estate sicuramente. Per dirti quanto sono entusiasta di fare le cose, a differenza di altra gente che appena ha avuto la licenza, la patente, giustamente ha fatto le cose subito, immediatamente, perché può disporre, perché ce la voglia di fare, ce la voglia di costruire, di creare, cioè a me non me ne è mai fregato un par di palle, tanto quanto sta piovendo. Infine ancora non è arrivata, è uscita alle 10, mamma mia, gara. Capito già, non pensare che io viva e naviga nell'oro, sono un operaio come te e quindi devo disporre di quello che purtroppo abbiamo, non è che mi posso permettere di fare l'allenatore giustamente come hai detto tu ad altri livelli, si fa quel che si può, ogni tanto si compra una radio usata, non usata, insomma si cerca di andare avanti, ma chi ha veramente quattrini e dispone di quattrini veramente chiaro che lo può fare, hai pienamente ragione già, anch'io sono del tuo parere. E poi a parte questa non mi entusiasma molto, è quello che è la cosa principale. Dovrei ricomprare tutto, sarebbe una lotta a casa, già che non può vedere i baracchini, figurati se mi devo mettere a bisticciare per radio amatoriali. No, assolutamente, non c'è lo spazio per i baracchini l'ho fatto, tu non l'hai visto ancora come, però è una cosa molto, diciamo, camuffata, con la stanza, con lo stesso colore, eccetera, eccetera. Dovessi mettere quelle radio lì, ci vorrebbe molto più spazio, cosa, dove le metti? Sono tutte radio grandi. No, sono d'accordo con te, no? O lo fai o non lo fai, cioè io... una stanza tutta mia dove passo la maggior parte del tempo ed è adibita proprio a questo tipo di hobby, non entra nessuno, mia moglie me la pulisce, me la tengo ordinata eccetera, però se non hai lo spazio è inutile stare. Io quando ero via Pasquale ho accampato, perché tu mi pare sei venuto, già hai visto come ho organizzato, un pezzo di radio lì, un pezzo di radio qua, cioè a quei livelli non si può fare un'attività vera e proprio della radio amatore, cioè quando è un baracchino anche grande lo metti, due buoni cucini a fare, vedi, ma quando devi avere una radio TV, una radio PLU, una radio HF, e il coso l'antenna rotore e tutti gli strumenti, gli amplificatori, non devo andare, non c'è spazio niente, io qualche domenica ci vediamo, ti porto qui, ti faccio vedere come sono organizzato e non c'è niente da fare, cioè o sei così o niente, se no non c'è spazio, non guarda, però non pensare che si possa fare tanto, soprattutto in questo periodo, infatti hai detto bene, io sino a tempo fa viaggiavo con 440 in HF, poi ho comprato 850, ho comprato 7400, ho comprato 780, insomma ne ho comprato tante radio, ma perché lo potevo fare, basta, ma ti giuro, non fatto quello, me ne sono pentito, e sottolineo pentito, perché avrei potuto fare altre cose che mi interessavano molto più di comprare quella radio, ma non me ne faccio un cazzo, avanti Luca. Ma confermo quello che dice Gianni, sembra così, ma ci vogliono soldi. per fare radioamatore, ma non che uno si compra due radioadatte e la frequenza dove si va e via, ma poi alla fine non è così, c'è nel buio, è come soldi, antenne, vabbè, le antenne bene o male te le puoi costruire, te le puoi costruire, è sempre una spesa secondo me. Già, guarda, neanche a me piace, non boh, fare ascolto, ma poi io l'ho avuto il V1, non è che ci sia stato questo granché, perlomeno poi so c'era di più. Puoi fare altri ascolti, altro tipo di ascolto, allora sì, però no, lo vediamo attorno, io non sento poco e niente. Vabbè, Claudio, Walter, ho sentito Massimiliano, uno sì, però non boh. Linki nazionale per dire, no? UHF, non so se esiste ancora, comunque a me, ripeto, non ci riuscirei per come sono fatto io. A Gianni ce lo vedrei l'amatore, perché lui è calmo, tranquillo, secondo me ti starebbe bene. Già, io ho dato una mossa. No, questo cosa dicevo che non mi ha mai interessato. E poi adesso dico la verità, non voglio, mi piace stare in maniera sussicato, se comincio a fare spese poi mi piglia male, te lo sto dicendo. Guarda, mi devo prendere un apparecchio, cavolo, non l'ho preso proprio perché non devo stare con le sedili non stretto. Se capita un imprevisto l'acqua dopo non c'è i soldi. Ce li ho da parte, però non ho voluto spenderli perché, visto, questo mese qua ho cambiato la lavastoviglie, metto la lavastoviglie, sembrava tutto a posto, cazzo, perdevano prima questi tubi di plastica e via. Dopo abbiamo scoperto che cosa c'era, c'era il tubo interno nel muro che perdeva, che era bucato, cazzo. È dovuto venire idraulico, spaccarmi tutto il muro, cambiarmi il tubo, qua, un casino, e di là in chimi. Ah, ho fatto tutti i lavori delle prese, ho messo le prese nuove, ho fatto un sacco di lavori. In più assicurazione, bollo, ghiso di dazzo, ci sono passati 2 mesi di là. E quando non li metti da parte, uno te li truffi. Ma è così. Quando stavo lavorando al comune, no, prendiamo un esempio, avevo conservati un bel po' di soldi. Però, vedi, quando poi, una volta che finisci di lavorare, inizi a pagare ogni mese, ogni 2 mesi arriva la luce, paghi internet, fai spese, cioè i soldi sono volati, perché non lavori più, sei fermo, hai questi 4.000, 5.000 euro conservati, ti volano. Guarda, noi sono volati, credimi, mi sono volati quei soldi e non ho fatto, si può dire, niente. Li ho usati per pagare e mangiare, proprio qualcosina per me, qualche paio di scarpe, qualche maglietta, per dire, no? Sembra così, ma non c'è che uno ha soldi conservati, se ce li ha conservati e lavora, allora ok, può fare qualcosa, ma se ce li ha conservati e non lavora, quelli spariscono subito. Non mi sono spariti, veramente, ma ne ero talmente, erano tanti, conservati sempre. Infatti questa volta non mi frega, io conservo e poi cerco di fare qualcosa, di vediamo, quando finirò di lavorare. Perché una volta che finisci di lavorare poi i soldi se ne vanno, infatti così è stato, è così. Adesso vediamo, ho fatto anche un po', diciamo, lo spaccone, segnali birra con gli amici, pizza ogni giorno, o panino o pizza, ogni anno che ti scende 30-40 euro, no, poi alla fine ho detto chi me lo fa fare, ogni santa di tutto l'estate così ero, e poi alla fine subito sono finiti già, non me li ho mangiati per dire alle macchinette, però mi ho sputato così con gli amici. Bisogna saper amministrare anche i soldi, è vero, però magari quando non ce li hai e la volta che ce li hai cerchi di rifare tutto quello che desideravi prima, te lo rifai nel momento, e succede così, anche se bisognerebbe darsi un freno tante volte, ma capita, perché uno si trova nel momento che si può star bene, allora si dice carpe diem. Vabbè. purtroppo bisogna, quando hai dei soldi conservati, devi anche lavorare, allora sì che puoi fare qualcosa, altrimenti no. Quei soldi poi una volta che li finisci, cioè ne lavori i soldi, avanti. Così è, così è. Vabbè, comunque soldi quando vengono non c'è niente a fare, io lo penso così. Se ce li hai li spendi, se non ce li hai pazienza. Si va avanti lo stesso. Quando però hai un hobby come il nostro che è costoso, purtroppo è costoso. Anche un cavo, io ho cambiato i cavi quest'estate, ci sono voluti 500 euro di cavi, quindi è così, è basta. No. Sarà la prima e l'ultima volta che acquisto qualcosa, perché veramente non ho più né la voglia né veramente la, come si dice, di fare, mi è passata la gana. Anche la volta si è rientrata. Stavo per prendere la parola per dirti che realmente hobby costosi non sono questi, anzi questi sono hobby dove realmente se compri cose buone ti rimangono. Tu immaginati che io prima di avere questo di hobby avevo l'aeromodellismo dinamico. Tu immaginati quando ti vedi il valore di una radio come può essere un 8,50, quanto può essere quella che con cui stai modulando adesso tu, che sta atterrando a una velocità di 70-80 km orari, che ogni 5-6 volte si schiantava sulla pista, lo sai il danno che facevi? E lì non è che una volta che tu c'hai un aeromodello e lo costruisci bene, comunque te lo puoi rivendere al prezzo che l'hai pagato, un poco di meno come puoi fare con una radio. Quello era davvero un hobby costoso, e infatti l'hai giù mollato. Ascolta, bravo, ce l'hai sempre questo andato del famoso, la base, funziona sempre. Poi l'hanno regalato tu? Allora, se vuoi che funziona. Ce l'hai sempre, ma chiari sono passati. Comunque è tutto, non è il discorso dei modellini, io piace l'elicottero, mamma mia, vado pazzo. Già lo sai che ce l'ho sempre quello là, quello famoso, solo che devo mettere la batteria più grande, c'è questa batteria più grande, non mi permette di non entra la carena che c'è davanti. E purtroppo deve rimanere senza carena, poi me lo sbilancio un po', è più pesantuccia con la batteria lì. Però già sale, adesso da un po' che non lo metto in moto. Mi sa che altri posti già, lo prendo, ci metti più di sopra e lo spacco. E 60 euro buttati, quelli 70 l'ho pagato. Un peccato. Comunque Arturo, stavo pensando, se riesco, prendimi l'elicottero a scoppio. Mamma, dopo vedo. Ma guarda, adesso costano una miseria, quindi gli aeromodelli, da come c'è il mercato globale, che si può ordinare le cose in Cina, la maggior parte delle cose sono cinesi. Prima venivano fatte sia in Italia che comunque in America, e i prezzi erano 10 volte tanto. Adesso con 200-300 euro un elicottero a scoppio te lo compri, prima ti bastavano 1500 euro. Io ho fatto durante una gara il filmato di un elicottero che ha la riproduzione fedele di un elicottero del 118 degli anni 70. E questo qua, che è un mezzo marco perché non lo sapeva pilotare, però c'è un bei soldi, sicuramente lo conosci se ti dico chi è. Morale ha fatto una figura di merda lì durante questa manifestazione, perché lui dice che gli ha calato il motore, mentre invece si è cagato e ha abbassato la manetta. Comunque ha sbattuto in terra e si è disintegrato questo elicottero, e l'aveva pagato la bellezza di 3.800 euro, disintegrato in giro di un secondo. Non so tu se tu hai visto quello, quell'aereo che si è frabinato al coso quell'anno, aspetta, sarà un 3 anni fa, all'ostello della Torre, si hanno fatto la manifestazione, questo qui si è praticamente andato verso il pubblico, che ha sbattuto la rete, da cui si è tutta la macchina che verrà parcheggiata, un casino. Sì, quello di Gelo Succhi è una persona, quello lì è una persona che mi ha insegnato a pilotare. Se tu guardi, se tu guardi nel mio profilo internet di Facebook, vedi mentre sto pilotando e facendo atterrare un aeromodello e vedi la velocità che ha. Per video? Un video, sì. Se vuoi ti guido e ti faccio vedere dove lo puoi trovare. Aspetta, se mi mandi il link, aspetta. sala Facebook. Tanto, ma qua ha rotto l'elicottero, mi ha speso 3.500 euro. Tanto. 3.800 euro. Era un elicottero, una coppia fedele, c'aveva proprio i tre omini, ma era grande, tu immaginati, sarà stato 1,70 m di elicottero. Cioè, il rumore che faceva era uguale a quello dell'elicottero reale, ma era bellissimo. Morale, come si è schiantato il traliccio posteriore, quello che c'ha il rotore piccolino, ha sbattuto, si è impennato e ha sbattuto contro il rotore centrale, l'ha disintegrato, pezzi che volavano a tutte le parti. Comunque, morale da buttare quella cosa, 3.800 euro l'aveva pagato. Poi c'è stato uno che è andato fuori dell'attore, si è andato verso un altro, perché... Allora, qua sono dentro la tua bacchetta, aspetta. Ma qui non ne hai però. Aspetta, tu vai su foto e ti apre sulla destra in alto, c'è scritto foto e video. Allora, in alto c'è foto 197 e album 4. Aspetta, vediamo un po'. No, non c'è nel video qua. No, aspetta, controlliamo su foto. Ma io sono su foto. Vediamo un po', su 197 foto, no, non visi proprio, ci sono queste qua, gli aerei, quelli che fanno tricolore, non c'è nel video tu. Aspetta, se tu vai sulla cosa generale dove ti fa vedere le foto, c'è scritto foto e poi a fianco di video, ce ne sono accorpati, capito? Vai, nascosti, tanto perché non si vedono. Aspetta un attimino che ti guido. Oh ragazzi, dai, io riprendo, però vi saluto e spiego tutto, ma va la nonna. Grazie per le chiacchiere a tutti, ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Luca e chiunque fosse in ascolto. A domani signori, statemi bene, buon proseguo. Ciao Claudio. Renti con 144 quando lo farai, che buon trabacco per domani mattina, alle prossime linee, a girare per già. Ciao Claudio, ci sentiamo. Ciao, allora tecla, alla prossima. Altro weekend ti sei fatto una foto con Cristian Cocco. Aio. No, video non c'è. C'è questo lavoro che ho filato. Non vinne. No, non c'è altro, mi dispiace, no, non c'è. Aspetta un attimino, Mundo. Se tu vai su sulle foto, aspetta che ti guido io. Allora, vado sul mio. Hai vista la foto della luna, l'ultima che ho pubblicato? Aspetta, foto della luna. Sento qua. Allora, aspetta. Questa qua dovrebbe essere. Qua. Sì. No, guarda che non è, guarda che la vedi, è sotto quelle due tipe che hanno le orecchie da coniglio, sotto, quella è l'ultima che ho fatto. No, un altro, non vi necca, non c'è, c'è un maracchino qua, voleva tattore, non vi necca. Poi qua ti sta facendo una sigata col cannello. Questi sono pannelli fotovoltaici. E quello è l'impianto che mi sono fatto. No, ti sto dicendo, vai sulla homepage, sulla mia homepage, sul coso. Se tu guardi sotto, c'è una foto di due ragazze con le orecchie da coniglietto. Sotto c'è la foto che ho fatto alla luna l'ultima volta. Ah, poi l'ho vista, sì, ma il video non c'è però. Adesso te lo faccio vedere il video, aspetta. Allora, per vedere il video devi andare su foto. Piaci foto. Allora, foto quali però? 66. Ok, ci siamo. Qua mi dà 66 foto, 197 foto e 4 album. E va bene, vai su 197 foto. Ci dovrebbe essere. Faccio il punto, foto e video. Ciao! Abbiamo fatto il video qua. No, c'è ne. tanto, certo quello che c'era prima l'ho passato. Vediamo un po', aspetta, caricando, aspetta, vediamo un po', se sono sotto magari. Aspetta, prendo il computer, perché col tablet non le fa vedere neanche a me, aspetta un attimo. Sta caricando qua, però non scende. Diardi, sì. Eia. Eccomi. Sto controllo, ma non le fa vedere, boh. Perché devo chiedere la bicicletta, ma non mi ricordo come è esattamente il cognome. Tulu o Tulo? Tulu. Sì. Ya. Aspetta un attimo. Ti faccio vedere una cosa, ti vedo risate. Dammi il coso, tu. In privato, un link. Chi è questo qua? Al Pacino. Peppe Al Pacino. Seduto non la sede da non da re, ma è quasi da. E Al Pacino è un CB del 45. E ne ho tanti amici di fuori. Sono iscritto. Sono anche nel gruppo del BR 45. Comunque tu mandami quando lo trovi, io ho il link. In privato. Non ci sono online, eh? E così dopo ci clicco e mi fa vedere il video. Forse tu li hai pubblicati, non me li fa vedere. Solo tu li vedi e basta. O a chi lo permette di vederti. No, ti ho detto di no già, aspetta, adesso ti guido e vedo che c'è lì. Se vedi una storia su cosa, su YouTube, hanno fatto uno scherzo a questo istruttore di guida, cazzo, è entrato in uno start, ma faceva finta di non saper guidare, no? Questo qui diceva gira a destra, piano piano, si spegneva il motore, qua a un certo punto abbinando la macchina ha cominciato a farla andare, a fare, cioè, come si fa il parcheggio così, ha fatto a detta gira e si è parcheggiato, poi ha preso, salito su questa trave, cazzo, con due ruote, l'ha fatta andare a due ruote la macchina e poi si è riuscito fuori dalla macchina, e questo è cagato tutto con gli occhi sbarrati. C'è la macchina, allora che poi lui se ne è uscito dalla macchina. Se ne è uscito, si è messo in piedi. E questo qui con gli occhi sbarrati. Ma sei stato lui, era un istruttore di guida, no? Beh. Allora, c'è solo su YouTube. Sì, a voler di video. Adesso vediamo un po'. Già. Mi sa che appena c'è qualcosa in tasca, qualche centinaio di euro in più, ci rimettiamo da parte, ci compriamo, credo di conto la scoppio. Sarebbe bello, però costa un bel anche la benzina. Ma non c'è mica tutti, ma ti diverti, però con la batteria, non fa due voli e si scarica, ci vuole la benzina, fa il pieno, ti la fai mezz'ora, ti diverti, cavolo. Quello sì. Sentire il rombo del motore, troppo bello, è di troppo, troppo. Guarda, ne fai altro del computer, credimi, e di altre cose, piuttosto che divertirmi con queste cose qua, è mezzo di troppo. Tu pensa che ci sono anche salite sull'elicottero? No, vai. Allora, una volta è capitato che avevo un problema, sono a casa di Claudio, non mi ricordo perché, forse per un'antenna, boh. Non mi ricordo, è sincero. Poi una volta, adesso me ne vado qua. Me ne stavo andando lì dove c'è, adesso hanno fatto un campetto, boh. Lì stava l'elicottero prima. Beh, mi sono fermato. Nel furgone di quello, cioè il furgone di quel ragazzo, il tappezzere che c'è via Sucis, no? Che sono, mi andavo a fare dei lavori lì a Muros. E mi dava il furgone. Mi sono fermato lì. A Carbonazzi e c'era l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Beh, me ne sono sceso, come bambino ho fatto, e posso avvicinarmi a vederlo, Ah, proprio Roma veloce. Facciamo solo attestamento, questa roba di tasse, tassini, che imbezione. Ma io ho aspettato fino alla fine già. No, io devo rientrare per forza perché era già tardi, devo portare il furgone. Ho aspettato che partisse l'elicottero. Cazzo bel Darito, quello dei vigili del fuoco. L'ho visto. Hai visto anche quello dei carabinieri, via delle vigne, produttore. Lì dove c'è il campo di calcio, atterrato lì e poi ripartito da lì. E niente, era un generale che avevano portato, sono andate le macchine dei carabinieri a prenderlo e poi c'era ripartito. Sì, io solo l'ho visto, dove c'era un trattore adesso lì giù a Bretella, giù, in quel pezzo di campagna. Io stavo rientrando, non ricordo con chi era, in moto ero. E molto lì, ma un paio di anni fa. Allora, atterrato lì perché c'era preso questo anziano, non so. Allora, atterrato lì vicino ai carabinieri. Quindi questo è proprio quello del più grande dell'elicottero. No, non è grande troppo, boh. Troppo. E mi sa che... Adesso vediamo. E se riesco, me lo prendo una scoppia. Mi ha detto, poi la benzina si è costata troppo e se ne ha fuggi. Però è sempre meglio della batteria. La batteria non dura niente. Vabbè. Sì, quello sì. Quello già è vero. Poi ci facciamo portare Antonio. Antonio, tutti la provati. Cos'è che... La benzina, guarda, costa 10 euro il litro. 10 euro il litro e poi devi metterci il 20% di olio ricino e non costano poco, già ti ripassa la ganaccia. Vabbè, ho detto 10 euro il litro, ma ti diverti, però non ti diverti mai con la batteria, no? Vabbè, no, non è neanche paragonabile, ma poi la coppia che ha il motore a scoppio sicuramente quella del motore elettrico non è neanche vicino, cioè certamente mio, e non riesco a trovare neanche. Beh, siamo andati alla mia città già. Chi a me? Ma che tal? Non riesco a vedere come sei messo. Con che nome sei messo? Tobi, come mi chiamo sono? Mandamela qui, va. Come sei messo? Gianni Rondine. Capo. Cognome, capo. Gianni Rondine. Tu come sei messo? Antonio Ginocchio. Capo di ginocchio. Sono come il cane di Bertola. No, sta cosa, no? Ma si fa la calamita, minchia. Che so. Guarda. Cazzo. Ti mette i caratteri della luna che si vede. Guardando di Max. Aggiungi video, c'è un certo punto dove c'è scritto aggiungi foto, aggiungi video, te lo apro e ti mando il link, dai. Aspetta un attimino, ci sono tutti i video. Arturo, ti è arrivata la richiesta? Che cosa mi è arrivata là? La richiesta alla missione. Di Max, ma tu guarda, sta pilotando la gru con la calamita, e so. Ci so. Il corpo non è stato già. No, è stato più grande perché stanno scaricando i film ogni sesto, da quando c'è il televisore grande, qua non possiamo dire più niente. La cinematografica, presente c'è. Sì. No, io c'ho... 21 pollici il mio. C'è ancora quel famoso che avevamo messo a posto in cucina, già non ce l'hai più. No, quello lì no. L'avevo dato Antonella. Adesso c'è sempre quello. Questo avevo pagato 200, quasi 300 l'avevo pagato io. E funzionava benissimo, proprio nuovo. Io c'ho un Sony Stereo, il Triniton, c'è presente, quello grande. Ce l'avevo piatto. No, quello lì non è infatti l'ho tolto e ho messo un LG a schermo piatto. E adesso però assurdi, devo comprare un po' di cosa, via. Però l'elicottero ci devo pensare, da 15 euro litro. Beh, non è che consuma, quanto sei bello, carino diviso in questa foto col fumo, carino diviso in quattro. Aspetta che te lo dove, dove sei, ma sei così visibile. Aspetta, non ti vedo però, mettiti attivo. No, ma non l'ho privatamente. Volevo lo stesso. Ma anche se non sono online, ma no, lo stesso che arriva. Sei mesi lì alla squadra numero 2, mamma mia, mia baraluglia, sempre chili, a pulire, inizio il giorno 15 e finisco il 30 luglio. Allora, vai, guardatelo adesso, che sono mando anche a Gianni. Sei arrivato? Sì, è arrivato, aspetta. Facebook.com. Adesso sì, quando mi annoio. Quanto dura? Non fa tanto. Ma è bloccata. Tanto di video fa tanto. Come? No, guarda che sono funzionato. Cosa no? Aspetta un attimino. Se ma è bloccato, ma tu sei questo? Con la cravatta da cibo. C'è la mano alzata. Fai state. Aspetta. Non è lui questo, no? No, vedi, non va tu. Non va. E tu, ben tu. Dimmi il tuo cognome di tanto. No, non va tu. Carol. Carol Guitti. Solo lui lottò fino alla fine, è vero. Papà vuoi dirla, fino alla fine. È verissimo. Aspetta, cerco di recuperarlo, non so perché. HD, forse bisogna togliere HD. Ma sono le cose, non le, se le cose non le sai salve. Ha sempre funzionato, quindi. Dato che hanno cambiato la disposizione, non ce ne compete. Con lui. Vedete, te ne faccio vedere un altro, ma questo è giusto per vedere se poi parte questo. Aspetta. E manda privatamente sempre. Oppure mi cerchi nella chat e me lo mandi lì, uguale, ti arriva lo stesso. Ma la giugna, di Andri è combattere con i taglienti. Oh, ti chat, beh, va, non la giugna. Poi sono sdraiato anche, non mi viene mai male. E cosa ti stai guardando? Tutte le cose mie? No, sto guardando Iene, Lucio, Vip, Baccia e Palta, Raffaella, Ficco, Elisabetta, Pellini, fuori di sé. Qua sta facendo vedere il pistone, no? Ma da vita, ma... Cosa? Su di Max, stava facendo vedere il pistone, signor Bello, la pistola piccolina, ma... Cartucce, vado. Figa. Guarda se ti ho mandato. Chissà chi parti. Lascia vedere. Ok, vediamo un po'. Questo forse parte. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha che scemo. Vengate da quelli. Leone. Togliere i macchi. Poi non è il pilota dell'aereo che lo stai pilotando. Adesso te ne faccio vedere un'altra, questa è una figata. Aspetta. No, ma ti voglio far vedere quello lì che non riesco a caricare. Però guardati anche questo. Aspetta un attimino. Questa è una figata davvero. E vediamo se capisci dove sono. Guardate un po'. Guarda adesso, aspetta. Gianni. Non te l'ho mandato, mandaglielo tu. Tanto, Gianni. Capisci dove sono? Beh, c'è un concerto. Che cazzo è? Concerto di Kiss a Milano. Embriaco pratico, ma è una figlia. Guarda questa cosa qua, aspetta che faccio vedere. Questo qua è la carica. Adesso questo lo sta chiudendo. Vicino ai. Sì, non si vede. Figlio da posto piano al cillotto. Preghiamo in giro. Usare il ferro, adesso te lo faccio vedere. Guardate quest'altro del video che è una figata. Guarda lì, caricano la pistola, va. Hai capito? Da dire. Mandate anche qua, devo stare a ascoltare a voi. Ma questo è un casino, già si comprende nulla, sì. E questo ne ha mandato un altro. Ma non è che a Gianni dove ci sei, scrivi Gianni. Però vado anche a lui, mica ne male a me. Vedete la cosa, guarda 5 secondi. Riesci a vedere? Quella è una gran pistola, quella sì. Natalia Catania si è preso un attanfuglio, credo, ma non va bene per fare quel tipo di sport. Non belle. Vabbè, quello che capita, ce la fai provare questa pistola, no? Sì, temo. Andiamo via. Ah, in campagna, si può andare a sparare in campagna, sei matto. Ehi, non si può andare a sparare in campagna. C'è il divieto. Ma stai scherzando? Cioè, vado in un posto dove non si può sparare e metto la pistola in mano a un pistola, ma stai scherzando? Vieni a... ti gioco ora guarda come voglio, a tu. Ti faccio vedere quest'altra cosa, io non so neanche cosa ho caricato adesso. Ah, questo modellino qua che ho costruito, guarda che figata che è. Manda. Mi madre me lo diceva sempre, farai strada. È un motore, si chiama motore Stirling ed è un motore a combustione esterna. In breve cosa succede? È molto semplice, c'è un pistone e un cilindro. Nel momento in cui tira dentro l'aria calda che viene prodotta da quella fiamma, si chiude una saracinesca, come l'aria entra dentro trova il freddo del pistone, si restringe l'aria che c'è e tira indietro il pistone e si riapre la saracinesca e fa scaricare l'aria. Prova tua, Come? Tuo, Via, l'ho pagato, mi sembra, 160 euro, però bellina, e metti la marcia e la macchina funziona. Cazzo! Questo del gioiellino è forte. Nuovo gioiellino motore Stirling. Fuori di capo, per tutti gli inventari. Ma a me piace molto da scoppio. Sono voluto tipo elicottero buio. Che forte, cazzo. Uno lo fa scaldare che fa un po' di fumo, poi uno riesce a prendere a quota, a vedere due. Ma anche se lo fai salire 10 metri da terra, va bene, 10, 15, no? Il mio saliva a 15 metri, l'elicottero. Sai che la batteria andava a un capo. E poi non è facile, ti dovresti fare prima un po' di guida, perché sono molto difficili da usare. Ho fatto un spettacolo a quadrato una volta, tele, ma che sono fermato, ero un ben alto, stavo andando un ben alto, vado a farlo scendere piano piano, cioè si scarica già la batteria, brutto dovrà bilan. È sbagliato, invece con motore a scoppio queste cose non ti succedono. Devi sempre regolarti il motore, ecco, giri il motore. Non ti dia, però arrivo. E poi con la mano scendi piano piano. Però ti diverti con quello. Ti diverti, sono sicuro, guarda. Poi te ne vai in un punto dove non ci sono macchine e case. E ci sia magari un po' di verde, rischi magari di non romperlo, capito? Certo, se ne vai a quadrato, sicuro a 1000 per 1000 che si spacca. Io ricordo quando siamo andati insieme a cose, come si chiama, a Monserrat. Sono andati nel nome del Rudoglio. Tu ne hai ancora ricordi? No. Pronti? Tutti rabbinati, l'ultimo è stato l'angusta dei carabinieri, l'ho tenuto per 3 mesi così e poi un giorno mi è venuta la brillante idea di andare a farlo volare sotto casa, se caggio due malamente. Poi era fatto con la carrozzeria, non era plastica, ma era di quella carta plastificata molle. Poi non so se mi è andato lì, c'erano sulla strada di Alghero. Poi c'era la rotatoria lì, c'è solo il rosso lì, cinese, vai lì, ce ne sono mille di cose, ce ne ho visto uno bello, cazzo, grande, bello già, se lo vedi, guarda, costa una 60ina, mi sa, vai a vederlo. Dove? Lì, c'erano sulla strada di Alghero, ti ricordi dove c'era la Coapla, la centrale del latte, tanti anni fa, di fronte non c'era quel negozio che vendeva... Sono il rosso, dai cinesi. Ho capito, ho capito. Articoli per la casa vendevano prima brick house, una cosa del genere. Vabbè, già ho capito, già ho capito. E lì praticamente ho fatto una brutta figura una volta, perché sono andato a comprare un elicottero, sono andato a pagare con la carta, cazzo, non passa con la carta, me l'ha negata, e mi ha detto tu non c'hai soldi, questo qua, cazzo, magari la dita, come ti permetti a parlare così? Sono andato a Città Mercato, ho fatto la spesa, è passata tranquillamente, deve essere che erano loro che avevano il post che era messo male. Vabbè, ma se ci ti mettono lo stipendio lì, cosa gatto anche i soldi, ma... E comunque, ce ne ho visto uno, sono andato qualche mese fa, l'ho visto, bello, grande, grande. Però c'è sempre la mia, è questo. La batteria è inutile, è inutile. Quanto costa per la batteria si difigura l'elicottero? Quasi, dai. Non lo so, boh. Ma aspetti, se non è come l'aspettare, già ti consegni piano piano, non stai più fumando, ti metti 3 ore al giorno a parte, metti te ne stai fumando, ti consegni, poi arriva un tot, poi su internet a voglia li continuiamo molto da scoppio a 200-300 euro, 400, li fai da un uovo vuoi. Ma cosa è carburante, non sentito? Vabbè, te lo divido con qualche altro, metto dietro la testa, rifammi di 5 euro, vabbè, un pomeriggio ti fa un belli. Antonio non l'hai sentito, non consumano niente. Ma la benzina non la paghi 5 euro al litro? 10 lì, no, vabbè, te la divido con qualche altro. Fai. andare, perché quello di via Coso è un ladro, quello di via, come si chiama, via Marsiglia è un ladro europeo, e invece la devi prendere a Ottieri, ti costa 10 euro o 9 euro, una cosa del genere, il litro. Con un litro poi gli devi mettere il 20%, immaginate quanto girano, gli devi mettere il 20% di olio ricino, quindi hai un litro e 20, te ne hai di cosa. Capito, e quanto giri con un litro? No, un bel, ci fai un paio di settimane, 3-4 settimane se fai a settimana solamente. Poi sono motori che dopo un po' li spacchi, perché per quanto siano lubrificati, però le vibrazioni che hanno sono assurde. Ma lo sai dove la trovi? Le trovi a basso costo, su eBay. Un giorno una volta ho visto, però lì è un casino, cavolo, bisogna vedere se chi lo sta vendendo è onesto, capito? Italy, ma se vediamo, vediamo un po', un piacino, vabbè, non lo so, vediamo, quanto. Vediamo, adesso non c'è su, non posso fare nulla, se ne dedichiamo al comune, ci vediamo, li guadagno bene, posso permetterlo, no uno, no, anche 10. Oh, Anto. Sai che ce l'ha anche quella passione, eh? Coso, Vittorio Giove. Sì, non sapevo. E ricco anche grande. Coppio. E io. Grazie, che bello. Anche, come si chiama? C'ha il quadrimotore, come si chiama? Quadrimotore, non so. Coso, come si chiama? Ma non mi viene. Archimede, quello che c'è la telecamerina. Certo, sì, lo conosco, Luffo si chiama. E quello è una figata, molto facile da guidare. E la telecamera ti fa filmarti dall'alto. Ce l'ha quello? Archimede. Ah, Massimiliano, mi sa che c'è anche l'elicottero. Se non erro, ma l'aveva detto lui. Sì, sì, mi sa di sì. Mi piacciono. Poi va anche modificato, chissà, non vorrei sbagliarmi, ma forse sì. Bisogna trovare un metodo di mettere delle batterie che durano, per dire, c'è Leandro, un amico mi ha detto se me lo compri sull'incontro lo sta vendendo. Chi? Leandro, un amico mio, quello lì costruisce aerei, ma fa tutto lui, e compra i motori con la legna, si costruisce le ali, si fa tutto lui, un bel bravo. È bello, un'apertura all'aria che non ci stava manco sul mobile. E questo qui l'ha visto, ha detto ma fa vedere quell'aereo, io sono appassionato, l'ha fatto vedere, dai ti offro questo, dice che ci ho messo un bel tempo per farlo, prima col legno, dopo l'ho pitturato, l'ho fatto, gli ho messo il motore, ho preso il telecomando, ci ho messo un bel tempo per costruirlo, perché lo facevo sempre negli spazi liberi, no? E alla fine questo gli ha offerto un bel di soldi, gliel'ha dato, gliel'ha ceduto, però dice a mio malincuore. E se ne siamo mandati a Antonio a Spezia? Torra! Oppa! E ce la vediamo? Aspettiamo. Oppa! Questo cos'è? Ok. Vediamo un po'. Anzi che bello, eh. Questo è bello, eh? Ah, quanti anni fa questa foto, questo video? Tutto te lo stai vedendo? No. Ma guarda, sentiti la musica. E la sento. Ma levita la partecipazione, ok, il prete è giusto. Sì. Ah, adesso questo fucile è tuo, Ma stai vedendo quel video che non si apriva? No, questo è un altro. C'è capelli qua. Video che non... No, questo non si apre. Ma ne ho guardato un altro. Ma questo non si apre. Questo, tanto non ti annui. Quel fucile. No, negativo. Ma questo non lo apre, non lo so. Ma noi dove sei che sta cantando lì, appunto? Cosa già? Dove c'è scritto mamma noia, sicuramente c'è Antonio del Campo. Nomo? Dove sta cosa già? Condividi. Ma non è sta cosa che sto pubblicando già. Sì, ma qui. Oh, ce l'ho spento. Praticamente qui c'è le palline fuori, le usa come le O di Google. Sì, sì. Ti vedi qui quando mi fanno volare. C'è anche la scuola guida. Ci sta. Guida si paga. Penso di sì. È tutto finito, hai. Di che cosa? Questi video, ma quale? Pieno, ma te non li sai cercare, se li cerchi li trovi, perché ce li ho. Tu devi, una volta che apri, metti e aggiungi un nuovo messaggio o un nuovo video e te li fa vedere. Ma sono visibili a me, già, ho trovato se li trovi, già ne aspetto. Ma sono visibili a tu, cazzo. Fai che adesso la dovrei aver aperta, prova un attimo. Ma ce li hai messi per chi vuoi tu. Se tu guardi. Adesso non lo so, ma non l'ho detto. Ci sono delle foto che tu non riesci a vedere. C'è nel buco, no? Dice che li ho nascosti, che cazzo ne so. Non li ho messi visibili. Per fare con questo computer, guarda. E non accende, mi dispiacciono. Non sto lì a perdere tempo. Mi sembra una cosa un po' strana che non accenda per quello. Massimiliano. Non va. È nuovo. Forse è stato un vecchio, è chiamante. L'unica cosa è non che me la tasta italiana. Perché è diversa la nostra. È diversa chiamante. È uno, tutto pulito dentro. Cavolo. Vabbè, l'hard disk è tutto mio, ma chiude. Un operativo in italiano. Che quello è il tedesco. Signori, è arrivata l'ora dei provvisini. Io vi saluto e chiudo tutto, spengo tutto, mi guardo un po' di TV. Ci sentiamo domani. Ciao ciao. Aspetta, mi sa se non è portato. Cosa? Aspetta. Cosa ha detto? L'acqua di Sassari non è potabile. Chi l'ha detto? Con un'ordinanza firmata questo pomeriggio il sindaco ha dichiarato l'acqua erogata in città non adatta al consumo umano diretto. Non può essere usata come bevanda o come lampada di alimenti, ma è possibile utilizzare la lavaggio di frutta e verdura e per gli usi igienici. Il provvedimento è stato promosso in seguito alla voce rete della comune della SL, in cui viene evidenziato come in tre punti, via Kenny, cimitero per Tassilchi, siano stati rivelati livelli non conformi con il parametro dei fluidi. A Banova ha informato che il disagio è dovuto ad alcuni problemi insorti al processo di potabilizzazione dell'impianto di tronco reale. Ora, non lo stai leggendo già. Senti un attimo. Sassari Notizie. Sì, sì. Aspetta, sì, aspetta tu. Ma è qua a Monte, neanche qua a Monte l'hai portato. I quartieri sono Porcellana, Centro Storico, Monte Rosello, Latte Dolce, Sant'Orsola, Lunisole, Campifici di Carbonati, Monserrato, Gioscari, Tingari, Di Punti, San Giovanni, Ottava, compreso Giagunone, Badelonga, Rede Martini, Mancaglia, Landriga, Canica, La Corte, Palmaglia, L'Argentiera, Biancarelli, La Pedraia e Platamonte. Ok. Cazzo. Ma neanche per cucinare va bene allora. No. Cazzo. Dammi già la mia madre allora, dimmi a tu. Adesso ti dico come entrare, poi un attimino di nuovo su foto di te e fai album. Allora Antonio. Ok. Allora qua ci sono 5 amici in comune. Qua ci sono foto 66 poi mappa. Clicco su foto. Vai su foto. Ok. Adesso qua mi ha aperto foto 66, foto 197 e album 4. E sopra album 4 c'è scritto aggiungi foto e aggiungi video. Adesso ci sono. Vai, scrivi, clicca su aggiungi video. Ah sì, i video si vedono. C'è scritto video, 19 video. Esatto, schiaccia su quello. Ci sono, sì. Ma prima l'avevo nascosto. Li ho aperti adesso. Prova un attimino a guardarti. A vedere se te lo apre quello dove sono. Io ti ho cercato di mandare. Allora, qua c'è vale quello, l'ho già visto. Vediamo un po'. Quello c'è. Quello c'è. Qui si vede. Qua c'è due volte. Allora, guarda questo video qua. Fai apro quello un attimino, aspetta. Questo qua c'è il volo. Se mi apre quello là, aspetta tu, ecco qua, da qua sotto. No, non lo apre tu, non lo apre. Scusa, guarda se lo apre a te. No, non lo apre neanche a me, evidentemente lo hai bloccato, non so cosa dirti, peccato perché era il migliore. Era il migliore, esatto. Video, una specie di, cos'è? Una simulazione di guerra. Io facevo guerra simulata. Questo tipo la divisa Italia. Cazzo c'è l'attrezzati, la mazza che veni qua, qua. No, qua non ti ha sparato, tu. No, quello di voi erano i pezzi dove o filmi o spari. No, ecco. Vabbè, ci vuole sempre qualcuno, no? Questa cosa, una vola, cos'è? Fatti un hard disk quello. Sulle rame, cos'era sta cosa? Vediamo un po'. Sì, ma guarda che abiti lontano. Cos'è sta cosa? Ma sei cazzo? Ci ho fatto un invento questa cosa tu. No, quello l'ha inventato Von Braun, che era il padre dei motori a reazione, ed è un motore a reazione primordiale, quello lì, alimentato a gas. Se tu senti quando accendo quello lì, da via Rockefeller si sente al latte dolce, il rumore che fa. Addirittura? L'ultima volta hanno chiamato i pompieri e ti dico questo. Sì. Lì non si è acceso, ma quando lo accendi fa un rumore tipo... Adesso ti mando, guarda, ti faccio vedere su YouTube, te lo cerco e ti faccio vedere, ti linko un motore a polso jet, il rumore che fa. Capito. Gianni? Ma te ne devi pensare. Hai visto il video? Già basta nella una banca che li vedi, quelli che non hai visto. No, sto aspetto, non è più... E mandata la pista che c'è sulla strada a prendere l'aeroporto di Alghero. No, mi dovevano portare, non mi ricordo chi, boh. No, siamo mai andati. Te lo posso dire anche io, però. Sì. Cosa tanto? Appartenere a quel club. 500 euro l'anno. Cosa tanto? Per pagare il terreno. No, per pagare quella pista lì. Per pagare quella pista lì. Siccome ci eravamo trasferiti dalla zona di San Marco, dove li facevamo volare prima, perché veniva spesso la polizia... aeroportuale, perché disturbavamo il radar di terra, e quindi perché le frequenze sono intorno ai 27 MHz, però le spurie evidentemente creavano problemi al radar di terra e ci dicevano di andare via. Allora avevano deciso di fare questo campo di cose di aeromodelli, ma è costato uno sproposito. Ma ho visto che c'è gente che ci va, andavano anche da Cagliari, arrivava. Prima era una cosa d'elite, cioè solo gente che aveva un piedino ci poteva stare, se no davvero 500 euro era un prezzo assurdo, anticipare tutti su lunghi, eh. Ma a testa? A testa, no, che cosa? Ma lo sai cosa voleva dire avere quel campo? Era in erbetta, tipo campo di calcio, c'era un giardiniere ogni settimana, ogni due volte, anzi due o tre volte alla settimana che andava lì a tagliare l'erba, a renderla bassa, a annaffiarlo, dargli l'antifestante. Ho visto, io sono andato. Ho visto delle gare a dire. Io lo so, ma ti ripeto. Aspetta. Beh, lì eravate più vicini all'aeroporto. Dove? Era San Marco. Era la zona industriale che c'è a fianco all'aeroporto. Lo so. Anche lì già siete vicini. Dove ci sono quei due trattori vecchi. Sto comunque... cosa c'è scritto? Pista, aereo, non lo so, una qualcosa del genere. Aspetta un attimo. Di aeromodellismo. Se te lo sto mandando ora. Guarda che si è accumulato lo sto scemo. Chissà. YouTube, casino fa questo. Sì, anche se non è realmente quello che ti volevo far vedere, però guarda, questa non l'ha mai vista in alta definizione, sentitelo, ho le cuffie micidiali. E guarda. Sì, sì. Passo. Vedi, potenza. Lo sai cosa fanno quei due motori che ci sono a fianco? Quello è nitrato di potassio e zucchero. E su mia scia calagato, cazzo sia. Cioè, ma sta quanto doveva finire? I due vettori che sono quelli laterali, che sono i due razzi che poi li fanno arrivare, si staccano, arrivano a un certo punto e li pilotano verso il coso, se te lo faccio vedere, verso l'oceano e poi vanno a recuperare. Sono giganti, sembrano dei grattacieli. Ciao.